era freddo. Adesso mia mamma ha preso la pizza, oggi non esco, esco domani, oggi non fa, sta un po' freddo, cioè, poi c'ho questo cazzo di raffreddore, mal di gola, di nuovo, troppo freddo per bicicletta, troppo. E adesso vediamo, dai, faccio un giro di conti, chiamo Giuseppe, un amico, vediamo se mi busca una macchinetta, e mi compro una bella macchina, una macchinetta è una 600 che mi basta a me, se ne frega, ma sei male che non piglia freddo, che mi serve per casa, fare la spesa e quant'altro. Ciao Luca. Dimmi. Ah, dimmi una cosa, ma tu aggiusti anche barre, sound bar, ma sai cosa sono? Non ho capito, aggiusti? Le sound bar, lo sai cosa sono, sì. Sound bus, no, cosa sono? Le sound bar, quelle, le barre lunghe a posto del, dell'un theater, le nuove sound bar. Beh, perché cosa c'ha? Ma guarda, non lo so, non accende più, no, non so cosa dirti, non aggiorna l'altro, non accende più. Ascolta, ma c'ha l'alimentazione da 220 per caso? L'alimentazione da 220, sì. Boh, fa la vetta, la controllo se vuoi. Ma è parte il fusibile, boh. Fa la vera. Posso dare un'occhiata? Beh, certo che sì. E come ti vengo, boh. Ascolta a me. Fusibile, ma non c'è, esterno non ce n'è, bisogna aprirla. Bisogna vedere un po' cosa è successo. E bisogna fare tante prove, bisogna misurare... Come si dice, bisogna misurare la... Bisogna aprirla e vedere un po', male anche il capo, mi sento, si è interrotto, il capo d'alimentazione. Bisogna fare le prove. Va bene, dimmi... dove ci possiamo trovare che te la porto. Via, no, se a Sassari mi chiami, io già sono qua al monte, devi venire al monte, ma la lasci, non mi costa niente darti un'occhiata. Sì, non è un problema, ma come faccio? Io mica ne ho baracchino in macchina. C'è il mio numero? No, non c'ho il tuo numero. Sai che lo mando su Messenger? Vai, manda. Oia, che c'ha vuoi? E te ce lo vedi, oia. Cosa c'hai Gianni, cosa c'hai? Cazzo, io lo sento bene, lui non mi sente, te l'immagini? È sordo quell'Eugenio. Ti devi alzare l'antenna, lascia lì. È sordo, è che qua c'ho un sacco di QRM, come c'è il QRM ti zappa. Ecco, lui ha QRM, per quello non mi sente. Perché io ti sento bene oggi? Perché c'ho poco QRM, capito? E oggi è mandato. FM, chiudere lo squash, il QRM non intendi più. E oggi gli ho mandato. Ma arriva più forte il QRM di me, capito, l'hai già. Succede come succedeva a me quando avevo sempre 7 di QRM. Se non arrivavi oltre il 7 non ti sentivo. Allora Eugenio, gli sta succedendo quello. Arriva più forte il QRM che io. Vabbè, io non posso pretendere perché ho 4 watt in questo apparecchio. Capite? No. Non imbatte. Ed è un bel, anche io mi di QRM, ma un bel baro, non ho mai avuto così. Oh, devo essere QRM di propagazione, perché ho sentito anche colui che sta dicendo oi. Sì, lo so io, colui mi è arrivato a Santiago 5, capito? Natalino mi arriva a 2. Davvero? Sì, è vero. Con questo apparecchio monogatto cosa vuoi fare? Più non posso regolare niente qua, capito? Scusami, ho sbagliato tutto. Esco così e buh, se voglio parlare, se no non posso parlare. Ti dico in un orecchio quello che... Ma sai cos'è Natali, che ti porti dietro questo cos'è spagnolo, cos'è inglese, buh, capito? E non riesco a capirti. Ne ho capito. Tutto per quello. Purtroppo non ci posso fare nulla. Allora, tu... Già, comunque già ti sento io, no problem. C'è un bar. KK. Chissà cosa vuol dire essere piccolini. Vabbè, potevi essere il primo a casa Sassari. Oh, se voglio, sì. Però no, non voglio perché sennò succede casino. Capito? capito, qua alle minima cosa ti denunciano subito. Cosa stai lì a... sono omologato, chi mi sente mi sente, chi non mi sente non mi sente, più di quello non posso fare. Veramente si sente più televisore di te, ti sta sopravvodulando. Sì, non ci posso fare niente, neanche per quella, quella non li posso, due bili di vedersi il televisore, è basso basso, è solo il tuo cazzo del microfono, la amplificazione, abbiamo il televisore e a me, già c'ho la voce bassa che sono pizzicato malamente, sono 3 giorni con l'influenza. Lei compri un paio di cuffie senza fili, se li fai mettere, così a me non ti disturba. Tutto comincia da qui. Si è rotto l'affare dove si attaccano le cuffie nel televisore nuovo. Se no, gli ne avrei comprate. Oh, non si compra di nulla da avere a lì. Ho capito, comprate, ti torna solo il televisore. Il televisore. Perché questo microfono amplifica un bel e amplifica più il televisore che a me, già c'ho la voce bassa perché sono influenzato, sono più di 3 giorni così. Ma il problema del TV hai? Ma c'è proprio il problema della Natalino? Sì. Ma non aveva risolto. Cosa? Ma non aveva risolto. L'ha risolto. Uno, vabbè, se n'è andato via, poverino. E l'altro c'ha l'antenna tutta sconnessa e non le vuole cambiare. Ma è comprare a su, detta di cuore di antenna, con l'amplificatore nuovo, così, così hai finito di... tutti i problemi, dai, lascia lì. Hai capito cosa c'è Luigi, Natali? Mi comprare la tua antenna così hai risolto il problema. Il tetto quello lì, a piazzarsi l'antenna, non può uscire sul tetto, perché è tutto chiuso, bottola non ce n'è. E viene male a piazzarsi l'antenna, capito? Anche io non l'ho piazzata sul tetto, ce l'ho piazzato il tubo in facciata, perché sul tetto non ci sono potuto salire. Hai capito che accetti un giro? No, no, no, ho capito. Ripeti. Allora, dove abita lui? Non c'è la botola per salire sul tetto. Quindi ci vorrebbe la scala aerea per andare sul tetto, è un problema. Infatti Natalino l'ha fatta partire dalla finestra sino a salire su il tubo che supera il tetto, però non può salire sul tetto, se no l'avrebbe messa anche più lunga l'antenna. Ah, ho capito, ho capito, e vabbè. E vabbè, purtroppo sono i problemi... basterebbe lì l'antenna con l'amplificatore nuovo e ha finito tutti i problemi. E il problema che aveva Emiliano, quel mio amico, tipo rotore, che ogni tanto modula col vicino di casa, ma il vicino di casa significa a 100 metri, entra con il televisore, gli ha comprato l'antenna, perché l'antenna era marcia e anche il coso, anche l'amplificatore. L'amplificatore gli abbiamo messo dentro casa e l'antenna gli ha messo a nuova, ha speso tutto 60 euro. Ha risolto il problema, perché allora l'amplificatore è fuori. Ma se non si decidi anche tu. Antenna e amplificatore 60 euro e abbiamo piazzato via. Ha risolto il problema. Anto vai, allora che vuoi capitano fa vedi, avanti. Occhio, che non ci sia qualcuno che non sia d'accordo. Attenzione lì, se disturbi chi dico io ti denunciano subito, Miantu. Occhio. E meno che buoni la strada denunziatemi. In chi vive chi su che è giunta a controllare a me? Fatti lo conto se ti conveni. Ma se viene viene con la polizia, mi cosa fa? Alla polizia di ieri si dà retti animi. capisce di niente, tanto poni e basta. Io so che a me mi hanno sequestrato tutto e mi hanno messo la multa, poi guarda che seguono i carrini e ti trovano tutto, perché a quello non lo infilocchi così, mica il radiatore. Occhio, se disturbi la sezione, perché c'hanno la radio lì, ti fanno nuovo nuovo. Non parlare così che stai sbagliando, Antonio. Tu cerchi di aiutarli, la gente, vedi come ti risponde. Vabbè, sì, qui mi sono cazzi due. Tranquillo, un altro lì. E dai, poi sei lontano, tu non sei così vicino, dai. Già sei lontano dalla sezione. Ora, Antu. Adesso mi sto rompendo le palle. Ma uno scorreggio di apparecchio. Ma cosa vuol dire vanno a disturbare? Ma non lo so che se dire cosa vanno a disturbare. Cazzanti, la sedi in panza. Ah, là tu lo ce l'ha a piazzare, poi se disturba se la vedrà lui, vai, fregatene. Avanti, Eugi. Sovravvalutato Antonio Assassa, dai. Riprendi oggi. Ho detto, se non fate come me, vi fate la casa come l'ho fatta io, lontano da tutto e da tutti. E niente. E non disturbate a nessuno. E fai l'eremita. No, perché l'eremita? Attorno a me è tutto abitato. Sono i vicini, però nessuno lo pesca. Ma io quella zona lì l'ho fatta, facevo la consegna lì, quindi sono passato davanti a casa tua io. Ma lei è tutto abitato, non è... si è diventata una cosa residenziale, è tutto abitato, passato fibra, hanno passato tutto, illuminazione, acqua, tutto quanto. E adesso qua le case se le fanno pagare, E adesso cominciano a prendere valore. Natali, riprendi. No, Giughezzi, vi grubiscio. Ciao, non vengo più. Natali, scusa un attimino. Scusami un attimino, Natali, stai sbagliando, stai. C'è compagni che ce ne sono 40 volte. Eccetera, eccetera, se non proprio. Da me con una bumera di merda. Ma tutto meglio, cosa posso disturbare? Con un apparecchio mamma mia, sembra una briga, boh, c'è di bottiglia, boh, lascia, c'è una bottiglia, è finita, cavolo. No, no, la questione è questa, boh, finito il discorso, quello che voglio fare, ma perché io devo andare a disturbare quello e quell'altro? Ma io non cazzo, che fare un pelo di lanterna, ma dai, ma vaffanculo, la pensiamo su. Infatti, ma c'è, allora, il discorso è questo, se stai modulando non disturbi che te ne frega, aspetta un attimo, stavo facendo la porta. Ma se non vuoi disturbare? Ecco dov'è, cazzo, tutte le canazzate non ti offendi. Cazzo, con tutti i disgraziati che mi sono in occhi, cazzo, non è proprio da me. Con una stessa che ci dà con la panca di cui a Marco Gimetti. Mario, ma aspettiamola. Ma veramente, veramente, non c'è neanche le palle di rispondermi. Non c'è neanche le palle, perché mi sto già arrabbiando, ma tantissimo pure, perché uno che non ha le palle di rispondermi, scusami, cavolo, ho solo detto, ma cazzo, ma con tutte le cose che ci sono qua per venire proprio a me, rompimi di cazzo, ma, mamma, mi fa stasera, basta, mi non raggio più cara, mi fa pizzare, mi fa stasera, basta. Anzi, ma qual è il problema? Poni davanti la sera di bulio e basta, se poi disturbi ti regola di conseguenza, non è che devi fasciarti la testa prima di averla rotta. A te non si parla così, cavolo, non va bene. E tutto quello che Sanremo, tutto quello che Sanremo, che stasera, stasera ci sono le coppiate, ogni paranoia, ogni paranoia. Vabbè ragazzi, io vi lascio e ci sentiamo. Luca, l'amico mio di Sassari, quando salgo a Sassari ti porto qualcosa. Ciao, grazie. Ciao Luigi, ci sentiamo, buonasera. Ci sentiamo tra un po', intanto riprendo subito. Ciao. Vabbè, c'è più nessuno? Già ci sono, sto chattando. Già, ho preso la pizza a mamma. Comunque già, ce la facciamo un'uscita una prossima settimana. Cosa dici? Un qualche bar, qualche karaoke, se ne voglia. Capito già. Dimmi. Ho detto, se ne vuoi la prossima settimana, usciamo a qualche bar, invece una cosa, qualche karaoke. Sì, lo vediamo là. Cioè ti faccio sapere. Poi andiamo a prendere la bomboria per con noi. Tanto ci sei. Ecco, buonasera. Ciao Gambino, buonasera anche a te. Ciao Gianni, ciao Luca, buonasera e ben sentiti. Perché qua c'ho splatter, devo cambiare apparecchio. Ehi Franco, come non mi splattera? A chi a te? No, no, nulla, zero. C'è da contare il consiglio. Sul 9. No, ma non sono splatter, sono sotto fondo, roba di propagazione, sto sbagliando io. Non sono splatter, è propagazione forte, forte, forte. Non ho mai fatto una prova. Aspetta, allora guarda il segnale adesso. Vai già. E guardalo adesso. Allora, se non sbaglio prima l'ho attaccato adesso. Allora, questo qui è uno e questo qua è l'altro. Ma guarda, ti dà allora, uno di 9,10 e l'altro di 9,15 a picchi positivi. Guarda questo. 9,30. Positivo. Sei sempre di marcia alte. Sei sempre di marcia alte. Stasera c'è da divertirsi perché c'è molta propagazione. Se entra questa propagazione qua, stasera ce la faremo per tarda. Lo prendi Luca? Allora io ti ho fatto le 3:15, 3:20, ho stichetto con degli amici ridendo, ci sono, mamma mia. Ridendo tutto ridere. Positivo, positivo, meglio così. Cioè, sono entrato a lavorare, mi sono messo nel divano e mi sono collassato. Mi sono collassato e sono svegliato 5 minuti fa, 10 minuti fa al massimo. Cioè, avevo stanco. Luca, deve essere che avevate ciucciato, stava perdendo così. No, sono entrato a un po' creato, ma non è ubriaco. stavamo ridendo, facevamo anche questa ragazza qua che ride. C'è una che si chiama Paola, cazzo è buona, l'hanno bloccata perché l'hanno segnalata per nudismo, nudità, adesso mi ricordo la parola, bullismo, e l'hanno bloccata fino ad a marzo. Posso entrare e scrivere, basta, non può fare live, ma è buona amica, ma una bitorra, e non me la fa vedere adesso perché è bloccata, una bella ragazza pure. Ehi, sono entrato, scusate, niente, mi sono arrabbiato. Ehi, vabbè, ho tutto indignato. Tu non ti devi andare a devi essere più diplomatico, no? Quando ti dicono così tu gli dici, vabbè, io la piazza, poi vediamo. Ma basta. Tu dai, non l'ha detto nemmeno per male Natalia, l'ha detto magari disturbi, però non l'ha detto per male, dai, a futti dinni, avanti capi. Ciao Antonio, scusa ma non ti culpo perché c'è il QRM alto io qua, comunque se tu mi senti buonasera anche a te. Tanto piazza l'antenna, poi cammino, diciamo il cammino si aggiusta tutto, importante che prendi e magari rispetti certe regole di lunghezza, di capo, dai, l'impianto fatto con criterio, senza confini ben, diciamo, un impianto ben cablato e vedrai che non è facile a nessuno, porta l'antenna a testa, che è una bella passione, tu. Scusami Robo, ma io non ti cuffio, perché per motivi di corrente. Riprendi Gianni. Oh Gabi, a me mi senti, sì? Sì Luca, sì. Ah, ok, non ci vorrebbe stasera infatti. Cioè l'hai copiata, ma tu l'hai copiata a Gabino. Con Sara, andiamo a Ciccio. Ma perché Luca non ti sono arrivato? Ma è loro che trovano per la mia strada, non so come ti piace. Cioè, se quanto di quale anno ne hai bisogno anche, proprio la mia, che è un posto, non so che dici. Cioè, fammi così qua. Avete tutte le terre di più, non è niente di particolare, una punta, dai. Vorremmo comprare esagerando che sono tirato un po', però perché questo periodo sai che è un po' in gira, tante cose, capisco. Ah, io a poco, io quando sarà il momento, mi ammetto che mi interessa, capisco. Ora ho finito, Ciao Arturo, buona cena. Questa stiamo andando adesso, la pizza. Vabbè, no. Vabbè, già, te le pari così. Luca. Ehi, hey, Gabi. Ma come ti arrivo io a te lì? Mi colpi tranquillo? Sì, c'ho quello M3, tu sei 7-8. Positivo, dai. Importante che la radio sia chiara. La vogliamo. Ti ascolto abbastanza bene, dai. Va bene. Gloria, se c'è un po' di freddo non fa uscire. Non fa uscire così all'affetto. Non fa. Se no, devo stare attento, se no non guarisco più. Sono già ricaduto con la mal di gola, la tosse. La prima volta, cioè la seconda volta. Un casino. Adesso vediamo un po', da sentire un amico adesso mi procura una macchinetta seconda mano buona, questo mio amico meccanico, adesso vediamo, non non si può andare ad Anazzi così. Forse può essere. Ma perché una macchinetta sta ricercandolo? Ma devo spendere molto, capito? Nessuno ci sono quelli che sono. Ma perché non me l'hai detto? Perché non dite le cose che quando... Guarda, quando è? La settimana scorsa un amico ha regalato una 600. Una 600, 1100. Ma regalata. Cioè nuova. Ma nuova nel vero senso della parola. Nuova. Aveva 180.000 chilometri, ma era una macchina perfetta, cioè l'ha regalata perché non le voleva sapere, perché questo qua la pensa che non può dare garanzie, non vuole proprio dire nessuno, quindi l'ha regalata. Io perché non ne faccio niente, perché cosa devo avere? Altre assicurazioni, altri bulli e cose. Direi che una macchina da prendere e rivendere, però l'abbiamo dato una persona che aveva bisogno, non è che era, però una persona aveva bisogno di un'altra macchina e niente, nuova. Pazienza, c'è 80.000 chilometri, non siamo ancora pochi, comunque regalata, cosa vuoi? Va bene. Magari era con l'idroguida, scommetto, perché sennò sono ben pesanti, No, era quella, la 1100, quella con i vetri elettrici, idroguida, era tutto. Ma 180.000 chilometri, cosa sono? Non so niente. 180.000 chilometri, non è che siano chissà cosa, se la macchina è sempre tagliandata, subito, quello che non hai fatto 180.000 chilometri fuori strada, allora sì, ho sempre il limitatore. Ma era di una signora, era della madre, quindi non era un soffiore, infatti bene, ogni 12.000 per gli anni eseguiti, addirittura quando era luglio aveva fatto anche la frizione. Vabbè, l'avrei ripresa, fatto il passaggio, l'assicurazione me l'avrei ripresa, sì, cavolo, vabbè, pazienza. Subito il passaggio, beh, subito, all'istante. E poi ovviamente prima avrei chiesto quanto mi prendevo per fare l'assicurazione per 6 mesi. Certo, a me mi sale un botto di assicurazione, un bel. Beh, dipende, ci sono anche tante clausole che prendono e non è che ti salga più di tanto. Lui se prendi a fare un'assicurazione anche con le scatolette, con le cose. Ti viene anche mensile, se la puoi prendere, la puoi, puoi fare, Gianni, c'è cosa, c'è al telefono? Gianni è al telefono. Ti stavo dicendo che ci sono tante cose che devo pagare mensilmente, anche l'assicurazione adesso, anche se hai un conto in mano, un conto alle poste, te la rateizzano, capito? La cosa stupida che paghiamo è il passaggio di proprietà, che sono cifre proprio da furto, non ti permette di fare nessun tipo di... Uno dice, porca miseria, mi compro una macchina, pago 150 euro di passaggio, la pago 1000 euro, allora ne vale la pena. Ma, cioè, è una cifra sproporzionata in base ai valori delle auto. Poi con i bulli che paghiamo e con le strade che ci sono, è proprio bello. Lo so. Secondo te è un primo assicurato con 1100 quanto dovrebbe pagare secondo te? Secondo me un 1100, allora uno dipende anche da quanti anni ha, perché se farlo fare per esempio a Reggio Bersani e paghi di meno, se parti dalla 14ª classe è un motto, possono essere anche 1600 euro l'anno senza nessun tipo di aiuto. Cazzo, 1600 euro l'anno, prova, fai qualche preventivo in internet, prendi il numero di fa un preventivo per un 1100. avevo 1100. Io della macchina mia se ne pago almeno 2000, almeno 2000 multijet, e pago 475 l'anno, ma sono in classe, sono in classe, e col furgone pago 500 euro l'anno. Cavolo, ci avrei messo la fibra. Lo so, però cose che fai in anni, capito? In anni di assicurazione. Anche se ti ho detto una bugia, perché andato l'ascolatore il furgone a gennaio ed erano 250 euro ogni 6 mesi, adesso è aumentato a 270, capito? Gli ho detto, ma scusami, scusa un attimo, ma allora con che le fare un sinistro, rovinarli, no? E tasca di soldi, cioè fare, ma purtroppo ci sono stati degli avvisi. Va bene, non è un problema. Pagate questa segretarietà, diciamo, era molto bene, vado, ce ne cerco un'altra. Non è un problema. Quello che lo so cos'è, perché vuoi far lavorare la cosa locale. Invece adesso col furgone me ne vado in internet. Vediamo, facciamo qualche preventivo e la faccio in internet. Gabi. Ma infatti conviene fare così questi locali scarseggiano un bel, e poi dovranno abbassare i prezzi, avanti Gabi, ripeto. Sì, non devono prendere, tu dici, ma c'è la pulizia assicurativa, ce l'ho, diciamo, sotto la parete, sotto casa, perché succede qualcosa, e pagano, però tipo assicurazioni, come può essere una Genialloid, una roba, diciamo cose così, una Vittoria online, cioè invece di fare, loro tanto, se tu la fai con la Vittoria online e la fai con la Vittoria, diciamo con un ufficio che trovi a Sassari, un esempio, Porto Torres, l'ufficio è datore della provvigione, quindi pagherai sempre di più. Allora adesso passeremo online, faremo un bel preventivo online, e se mi dicono come c'è passato, perché io sono già sei anni assicurato con voi, bugia, 5 anni assicurato con voi, e lì è sempre stato uguale, adesso l'anno scorso ha aumentato, cioè quest'anno ha aumentato. Il conto, cioè a me mi va bene finché rimane sempre uguale, lo potrebbe anche andare, ma quando ti comporti sempre bene, poi aumenta. Allora, diciamo che si devono prendere anche dei provvedimenti, perché non, cioè 40 euro l'anno sono di tasca mia che è in tasca loro. Sì, già riprendi, vai. Gianni. Sì, a Cigavì. Insomma, sono un po' impegnato perché ho due persone che sto rispondendo al telefono, lui il casino, non mi lasciano in pace. Allora, ti voglio dire una cosa, Gabi, io ho l'assicurazione che è molto buona, ho mandato molta gente e si sono trovati bene. Se tu vuoi andare via Gorizia, sotto quel porticato che c'è dopo il semaforo, c'è un'assicurazione lì. Vai lì e vedrai che risparmi, ti fai fare preventivo. Sì, ci andrò sicuramente, perché tu dirai, non ti fai vedere 40 euro, no, mi faccio vedere per il gesto, cioè mi aumenti la sicurezza per fare cose, perché sono stati degli aumenti, vabbè, aumenta, e io cambio. Ho sentito uno in sottofondo, chi era? Buonasera. C'era qualcuno che ha parlato. Sì, l'ho sentito nella pausa tra me e Gianni. Avanti, buonasera, chi vuole entrare? Non vuole entrare nessuno. Capito, Lu? Se mi capita qualcosa te lo faccio sapere. Senza problemi, magari se tu mi autorizzi vi giro il tuo numero, così ve la vedete voi. Sì, ragazzi, va bene, ci dico per sapere. Perché un mezzo serve, adesso non c'ho più 20 anni, capito? Basta, catapiglia freddo, la giubilia di un bel, basta adesso. Un mezzo serve, poi già farò meno uscite, come i lavoretti, già riesco a assicurare i soldi, però me lo uscite e mi metto da parte, comunque quando c'è da pagare l'assicurazione me la pago, capito? Poi ci uscire ogni sabato, venerdì e sabato esco, cosa ne so, due volte al mese. E Lu, da solo un giorno sono uscire io, venerdì e sabato, ma non me lo più, appunto. Guarda, non me lo posso permettere per uscire venerdì e sabato, ogni venerdì e sabato, oppure uscire, andare e fare, perché stiamo arrivando a un punto dove bisogna anche guardare l'euro, cioè bisogna anche guardare, io logicamente per uscire, andare, preferisco più tenere, cioè mettermi su di una parte e fare spesa, e anche perché il lavoro che faccio io, il danno è sempre dietro l'angolo, e quando ti succede qualcosa sono colpi di 1000 euro, quindi io già da un po' che non esco, mi piacerebbe perché a volte, ma non per fare chissà cosa, per fare baldurio, anche per fare con gli amici, diciamo con i conoscenti, con gli amici, magari con qualche amico d'infanzia, anche per vivere dei ricordi, però vai al mare, fai colazione, io la voglio alla fine e partono 7 euro. Se la fai tu con la spezza, cioè spendi poco, poi se uno sei in tre è normale. Se ti basta i 7 euro, se ti basta, appunto. Ma prima uscivo venerdì e sabato, poi solo sabato. Oggi non esco, perché non ho la giugana, domani non lo so, sono un po' così, c'ho un po' di tosse, non lo so, se me ne rimango a casa, chi se ne frega, va bene uguale, tanto però lo stesso me ne sto al caldo e non più freddo. Esatto, e va bene, stavo prendendo un po' di propagazione, ho fatto un giro sui canali alti e stavo prendendo qualcosa, ma adesso si è di nuovo chiuso, hanno chiuso di nuovo i cancelli. Ma tu adesso che antenna stai usando? La Game Master? No, io non ce l'ho la Game Master, io ho la Grazioli. Da quando ho rimesso in stazione ho la Grazioli. Ho la Grazioli qua sul Kenwood e la Sirio o la GPS con i radiali nel Superstar, e poi ho la GPE nel ricevitore per la 27. Ma adesso ci avevi la privazione, ho capito, va bene. Ma tu dove sei vicino, dove abiti? Vicino alla porta, così non mi ricordo. No, io sono vicino a Sorso, la strada di Sorso abito. Mi mandano la foto, del mio impianto d'antenna. Ah, in campagna siete? Sì, in campagna. Io abito già 6 anni in campagna. Sono già 6 anni in campagna, però non avevo messo più stazione perché stavo aspettando per fare le cose fatte in un certo modo, con un po' di criteri. E pian piano mi sono messo, ho accumulato qualcosa e poi il giorno mi è salita a testa, boom, tutto assieme, e ho fatto la stazione. Chi ti rompe le palle? Nessuno. Va bene. Ma l'hai messa alta questa antenna, capito? Sì, in pratica sul traliccio ci sono 9 metri di traliccio e 9 metri di traliccio e altre 6 metri da terra. Lo stesso, le altre sono sul traliccio, salite, traliccio triangolare 30x30, quello dei palchi, intendiamoci. Sta viaggiando così. Va bene la foglia, va benissimo, non bene. Gianni, lascia il telefono, io vieni con lui. Addio, poi mi scrivono, però sto qua, poi rispondo. Sì, allora, sono qua. non mi date il tempo di rispondere. Allora, ti volevo dire una cosa. Adesso un'assicurazione, non so se tu lo sai, si può pagare anche mensilmente. Ah, va. Lì, dove vado io, penso di sì. Glielo stavo dicendo. Conviene, è il suo. Conviene sì, anche perché non te ne accorgi nemmeno. Una cosa, è vero. Guarda, ci sono delle assicurazioni che ratizzano anche ogni 4 mesi. Adesso vediamo. Se non mi pigli una P50, lungo la stufetta, dretta. No, la macchina ci vuole. Questo è un uomo senza macchina, è una persona, un uomo che... Cioè, ti devi spostare, visto anche dei passaggi, visto anche lui, che non fa, che non fa, che non fa. Ci vuole la macchina in casa. Quanti anni c'ha la patente lui? 24. Se te sei senza macchina. Come, scusa? Sì, senza macchina attualmente. No, usavo quella della mia ex compagna. Sì, ma tu attualmente sei senza macchina, di tua proprietà. Non ho capito, Gabri. Tu attualmente sei senza macchina di tua proprietà. No, non me l'ho mai comprato. Ah, ho capito, non te l'hai mai comprata. Quindi sei senza macchina, di tu adesso non ne hai macchina. No, no, negativo. Ora come ora ho una bicicletta per spostarmi. Mi sta comodo, sono sincero, mi sta comodo. Come si dice? Adesso vediamo, là. Tu pensa, per fare la battita ho speso 300 euro quasi con la bici. Ma sono pentito la verità, però pentito, oddio. Mi fa comodo perché mi sposto, faccio le commissioni, la verità, mi aiuta molto, Mi do da peggio, Ho capito, ma sei sempre in bicicletta. Sei sempre in bicicletta. Per me la d'estate, perché ti muovi d'estate, assate, no? Per mezzo al traffico, va bene. Ma d'inverno non si deve andare a lavorare, cioè ci vuole la macchina. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Vivere la macchina. Ma sto guardando che poi è toccato una cosa. Ma se sento qualcosa di qualcuno te lo faccio sapere. Aspetta un attimo, Gabri, ci ascolta un messaggio. Vai, tranquillo, non ho un problema. Io controllo un attimino i miei cagnolini, che ti ripeto, sono arrivato qui, sono coricato e sono appisolato nel divano. Gianni, eccomi qua, chi sono? Cazzo, tre, sto rispondendo, non mi davo subito. Vai tranquillo. Faccio un attimo di bianco, già, e controllo i cani. Ok? Dai, io... Perché voi, se volete, dopo cena sono in radio io, Se volete, dopo cena io... Dopo, diciamo, le... Dopo un quarto, entro. Ok, Gabri, dai. Senti un po' qua, allora. Andate. Luca, va. Luca. CQ canale 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10. CQ canale 10. CQ 10, c'è qualcuno? Operatore Gabriel Mike, c'è qualcuno? Buonasera, 27075, operatore Gabriel Mike, c'è qualcuno? Buonasera, 27075, c'è qualcuno? Buonasera, 27075, c'è qualcuno? Attenzione, Gabino, ci sei. Hola. E ciao. Mi metto le cuffie, Gabino. Ehi, ehi. Da, così evito di disturbare me. Perché si sente molto l'audio già? E i muri sono fini qua, capito? Anche quando vanno a fare la pipì si sente. È positivo. Aspetta 10 secondi che mi devo fare l'insulina già. Fai, io già fatto. Beh già. Eccomi. E allora? Via. Qua stanno guardando Sanremo. E a me proprio non piace. Anche io non l'ho guardato. Aspetta che spengo. accendo la luce, ma si è dimenticata accesa. E hanno fatto tutto Ferrani e Fedez per stare al centro dell'attenzione. Lui che ha parlato male dei politici, lei che ci ha messo quel vestito che sembrava nuda. E chi? La Ferragni? No, non lo sto seguendo. Dopo la porcheria che ho visto, che ha fatto quel deficiente che ha rotto tutto e che ha fatto un danno ai fiori, a quelle cose lì, cioè, quello è un maleducato, gli avrei debitato tutto. E poi in presenza del Presidente della Repubblica, infatti ho così detto, boh, basta, la mia visione con Sanremo è finita qua. A quanto pare era tutto quanto preparato, Gabriele. Ho capito, però quando c'è un'autorità così non è che puoi fare una cosa del genere. Quello per vedere, per... cioè loro sono convinti che la gente lo guarda. A me dopo una cosa del genere mi fa schifo. Eh sì, praticamente diciamo far sì che si promuova il teppismo. Sì, vabbè. Oioia, quale te l'ho dato già, il Saturnecco? K. È positivo. Secondo me in questa radio qua hanno... cioè hai la modulazione normale e poi il beat risale tantissimo. È una cosa così, succede anche nelle superstar. È un tanto. Che il beat sale troppo. Caspita, è fortissimo. No, ma non è un problema tuo, l'ho notato in tutti Saturnecco e in tutti Superstar 3009, che il VIP è dominante alla fine. È vero che è una cosa di fine trasmissione, però caspita. In effetti è fatto apposta per far capire che stai finendo di trasmettere, di fare il passaggio. Sì, infatti il VIP serve per quello, però non è una cosa, cioè molto, molto sproporzionata, diciamo, dalla trasmissione alla fine trasmissione. Oiuia. È tutto a posto? Sì, grazie a Dio sì. Adesso sto camminando bene. Positivo, meglio così. Ho rinata l'antenna già? Sì, dovrebbe arrivarmi domani. È positivo. Quindi ha avuto tutta questa differenza tra la Turbo 2001 e quella lì. Ma è una cosa, io non conoscevo quell'antenna. Quella cosa che bisogna fare già, devi prendere adesso come tariffa, magari ti sposti un po' e anche andare, non lo so, verso il medio lì, in quelle zone lì, e fare delle comparazioni di lì, a distanza. Sì, ma per dire, Saverio stamattina stava ad Andalusia, lo sentivo Santiago 9. Sì. Cappa la sessantena. Sì. Già. Sei più performante, ma la fanno solo per base magnetica? Sì, la base magnetica è praticamente tutt'una. Praticamente c'è anche all'interno, abbiamo tolto quel gommino che c'è sotto e c'è tutta la stagnola che la ricopre. Sì, ha diciamo il caricamento in antenna, però è il caricamento dove c'è la cosa, diciamo, il rivestimento trasparente. Ma dovresti fare delle prove e appena ti arriva ti fai un giro, poi metti in campo aperto, perché lo sai meglio di me, queste cose si provano in campo aperto. Infatti magari te ne vai di lì dove c'è, diciamo, lo svincolo di Olmedo nello scorrimento veloce, ti metti in un'apertura di lì, tutto aperto, e fai delle comparazioni con Sassari e vedi un po' cosa ti dicono. Però magari con qualcuno che ha qualche apparecchio, qualche HF che ti possa dare una diciamo delle che ti possa rilevare il segnale effettivo, mi segui? Vabbè, ma se lo fa in città lo fa anche fuori, c'è poco da fare. Stessa macchina, stesso baracchino, con due antenne diverse, la prova è fatta. Già, dipende, a volte in distanza, perché l'antenna, la 5 ottavi cambia molto, nei DX cambia molto, quindi anche perché c'è da vedere una cosa. Allora, la Turbo 2001 è un'antenna di vecchia concezione, la LEM non ha mai fatto progressi su quell'antenna, era un'antenna che andava forse 10-15 anni fa perché era al top di gamma. Adesso magari con l'innovazione, con le nuove studi, sono arrivati a un punto che hanno fatto, che hanno, diciamo, hanno brevettato questa antenna qua, che magari sì, è proprio vero, che è molto più efficiente della Turbo 2001, anche in distanza, anche, anche diciamo fuori dai, dai 20, dai 40 km. Io la provo, comunque l'altra non si può più mettere, per sfasciarmi la macchina non la metto più. Ma assolutamente no, ma io l'avrei spezzata in 6 pezzi, l'avrei tagliata a mola. No, ma infatti io non lo metto perché la macchina mia è nuova e non mi va, non mi va, perché già sembra, se mi dovesse uscire, se mi dovesse fare un danno così alla macchina, io l'antenna la prendo a morsi, non, non esiste, non esiste. E no, ti ripeto, come ci abbiamo, abbiamo già parlato, quando sarà lo farò in furgone, però magari a fine mese si farà tutto. Però nel furgone metterò la, la, 3000, la, sì, la 2001, ma voglio un po' di, diciamo, un po' di performance sotto, mi segui? Io, ho capito. Adesso vediamo un pochino, adesso vediamo un pochino. Aspetta un attimo. Oh yeah. C'è il cane che è qua con me adesso, gli fanno male le zampe davanti. Quale? Il pastore belga? Il fornese. Il fornese è zoppo alla zampa destra. E quando è infastidito non si fa controllare. Quando è infastidito non si fa controllare. Non ce la fai a guardarlo sotto, che non sia stato qualche spina, qualche vetro? Ma vetro proprio non ne ho qua, sicuramente gli è entrato qualche spina o qualcosa. No, non si fa controllare, proprio rimane, quando ha dolore questo qua diventa un mostro. È completo già? Sì, scusa, stavo leggendo un messaggio. Non ho capito cosa hai detto, scusami. Ero attento a un messaggio che mi hanno mandato. No, no, detto, questo qua quando ha dolore non si può toccare. Non si può toccare. Adesso vediamo domani, alle buone. Sarà sta, dai, diciamo, sarà sta recando sotto. Niente. Vedo un po' domani mattina presto. Dopo che mangiano. Dopo che mangiano. E niente. No, già, se è buona quell'antenna hai fatto bene, perché è carina anche da mettere in macchina, mi segue, è una cosa che se metti in macchina non è invasiva, la Turbo 1 è un'antenna molto invasiva, quella lì si vede che è molto ben rifinita, molto più rifinita della Turbo 1. Sì, è più carina, più bellina anche come estetica. No, l'ho presa subito perché ho visto la differenza, poi me ne sono accorto perché quando andavo per mezzo ai palazzi, solitamente quelle antenne quando per mezzo ai palazzi non li senti più, a lui lo sentivo sempre bene. Sì, sì, e magari già. Ripeto, la Turbo 2001 è un'antenna che è stata, cosa, ha 20 anni di storia quell'antenna, confermi? Sì, sì, sì, hanno fatto diversi modelli, però sempre c'era quello cromato che aveva, aveva un modello limitato, poi c'era quello con i quattro muri, c'era quella blu, c'era quella rosa, le hanno fatto diverse. Lo vedi, però è sempre un'antenna di concezione, di concezione 20 anni. Magari questa qua è un'antenna nuova, un'antenna che sia un'antenna di 4-5 anni di progettazione, è sempre un'antenna di ultima generazione, che magari hanno migliorato le cariche, hanno migliorato gli stili, hanno migliorato anche, già, vuol dire anche molto l'acciaio armonico che si usa nell'antenna. Magari diverse componenti, diverse fusioni, e ha più radiazione. Guarda, tu a vedere la carica non è grosso il filo, capito? È un filo normale. A vedere la carica sembrerebbe un'antenna di giocattolo, invece va veramente bene. Io ho avuto modo di provarla, ti ripeto, al quadrato, dalla tappa. Pettinoli, l'abbiamo provata con Luca, capo, l'abbè mi ha dato da Santiago 1 a Santiago 3, sempre attenuato, a lui da 3, poi con la sua antenna da 3 a 5 addirittura. Aspetta, quasi doppio. E non è a dire, la mia è tarata bene, l'antenna e tutto, non è che c'ha 1,1 di stazionari, non c'ha problemi, capito? No, ma vuol dire che tutta l'antenna è fatta diversamente, diversa concezione, diversa manufatto già, è va meglio. Guarda che io ti posso dire una cosa, io per il ricevitore la Discona, la LEM, la vuoto, ed è considerata una delle migliori antenne insieme alla Diamond. Posso dire una cosa, questa antenna qua è mezzo sorda. Fuori c'è contatto a loro e non rispondo, non mi sto trovando bene io con la LEM, la verità, non mi sto trovando bene. Dicono che abbiamo comprato un'antenna di casa, diciamo di stazione fissa, quella che stai usando tu, dicono che è molto buona, molto performante. Però c'è sempre un però già. Bisogna fare la prova che hai fatto tu per cambiare anche marca e trovarti anche meglio nelle prestazioni e anche per non farsi danno. La Turbo 2001, la Turbo 3001 Turbo Star, quelle lì sono antenne per, diciamo, per mezzi pesanti e va bene così, sono antenne fatte magari per durare nel tempo, perché per la durata non c'è da dire di nulla a quelle antenne. È vero. Sì. Ma la LEM, Gabi, è una signora a casa, non è che... È strano, perché la LEM, io ho avuto tutte le antenne LEM e Sigma. Le LEM sono sempre andate bene. Sì, però ultimamente, ti giro il numero del contatto dell'assistenza LEM e del tecnico che ti richiama, se tu hai qualche problema con l'antenna, ti richiama e ti dà assistenza, devi scrivere 4 righe su WhatsApp, poi ti richiamano loro e vedono se risarcirti i soldi, oppure ti cambiano l'antenna o gliela mandi, capito? Allora la controllano, se è un'antenna difettosa, che non è cortocircuitata bene, e erano una nuova. Lo so, perché io ne ho portato una a Fusaro, che non si regolavano le stazionarie, ne avevo preso una di quelle da 1,60 m così, e non c'era verso di regolare le stazionarie, nessuna maniera, le ho riportate, io ti ho detto, cara mia, questa antenna non regola le stazionarie, ho provato i 1000 voti e niente da fare, ci dice lasciamela, chiama la LEM e gli ha detto di tenerla che di cambiarla, me l'ha cambiata, me l'ho preso un'altra, mi ho preso la Turbo 2001, aggiunto qualcosa che ho preso quella. Sì, è meno male che lo fanno. L'ha fatto anche a un signore produttore che conosco io, proprio non regolava le stazionarie, questa è la Turbo 2001, questa qua la Turbo 2001 non regolava stazionarie, c'era un difetto di fabbrica nella bobina e non c'era Cristo di prendere e regolare l'SVR, niente. Ha contattato questa cosa tramite Facebook, nella pagina, non so che pagina è, e infatti mi ha girato lui il numero per l'assistenza LEM e gliel'hanno cambiata, proprio gli hanno mandato un'altra antenna. Sì. Ma la Turbo 2001 io come la compro, la piazzo 1,1 di stazionare, senza toccarla nemmeno. Perché è già fatta da loro. Sì. Poi attenzione, la carica cambia anche perché la Turbo 2001 li metti il kilowatt e te lo tiene. Ed è una cosa constatata perché la Turbo 2001 in barra mobile tu li metti un kilowatt e lei viaggia per anni col kilowatt. Queste antenne nuove non lo so se possano essere chissà quanto. Questa antenna qua stavo guardando quando me l'era andata ed è un 600 watt in PET, però già non è che si usano queste grandissime potenze, anche quando una radio che ti dà 20 watt, 25 watt di